tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio, bentornati da Massimo Callegari in questo venerdì che precede un weekend molto atteso di campionato che si chiuderà con Roma-Fiorentina. Ranieri contro il suo passato per cacciare i fantasmi che sono riemersi in casa giallorossa nella serata europea di ieri. Parleremo anche di basket in chiusura con Flavio Suarni, redazione, alle 10 Fabio Cantadori. Una vittoria per il Genoa ieri sullo Slavia Praga. Due sconfitte per le due romane arrivate in modi molto diversi. La sostanza è che l'Europa, anche quella non d'élite, è molto insidiosa per le nostre rappresentanti. Ne parleremo non prima di aver sentito, per nobilitare naturalmente questo avvio di puntata, Giampiero Gasperini, che deve commentare di recente solo vittorie entusiasmanti del suo Genoa. Eccolo dopo il successo di ieri sera 2-0 sullo Slavia Praga. Abbiamo fatto a sprazzi molto bene, poi nel secondo tempo abbiamo cercato di gestire un po' di più la gara, qualche errore grossolano di gioventù all'inizio che ci poteva costare. Penso le occasioni migliori per lo Slavia sono nate da qualche errore nostro, soprattutto di disimpegno. Poi dopo abbiamo fatto una buona gara. Non è facile giocare sempre con intensità, con continuità tutte queste partite che stiamo facendo, però possiamo ancora migliorare sul piano tecnico. Ma la squadra, anche questa sera c'erano molti, molti nuovi, l'esordio di qualcuno almeno a Genova, e quindi tutto sommato va bene, anche perché, ripeto, credo che abbiamo ancora margini di miglioramento. Queste le dichiarazioni di Giampiero Gasperini raccolte dal sito sportmediaset.it. Ieri ha seguito negli studi di Premium Calcio, che ha l'esclusiva dell'Europa League, tutte le partite di questa prima giornata. Emiliano Mondonico, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buon pomeriggio, Emiliano. Buon pomeriggio e grazie a te per avermi chiamato. Dimmi. Quali sono le tue considerazioni rispetto a questa prova del Genoa di ieri sera? Quanto ha inciso l'entusiasmo che è arrivato dalle prime vittorie in campionato? Quanto può incidere una preparazione che Gasperini ha elaborato sulla velocità e sulla brillantezza, e quanto anche il valore dell'avversario di ieri sera, lo Slavia Praga? Il Genoa è una squadra di fanatici. I fanatici al servizio di questa maglia, al servizio di questa squadra, al servizio di questa società, ed è chiaro che sta facendo delle cose egregie. Ha vinto meritatamente la partita. Sicuramente degli avversari dell'italiana era la squadra magari con più problematiche, però il Genoa, appunto, squadra fanatica al servizio proprio della maglia, ci ha messo un attimo, un amen a tirar fuori tutte le difficoltà degli avversari e a mettere al sicuro il risultato. Perciò complimenti a questa squadra, che ha in Sculli, secondo me, l'emblema più rappresentativo, e speriamo che sia che duri, perché è bello vedere squadre nuove trionfare anche in Europa dopo 17 anni, anche se questo mi ricorda che in quel momento anche il mio Torino stava trionfando in Europa, però questo è un altro discorso. Naturalmente c'è possibilità, come sempre, per gli ascoltatori di intervenire con le telefonate al numero verde 800 24 00 24, messaggi sms alle 349 238 6666. È interessante questo ricordo, questo parallelo con il tuo Toro dei primi anni 90, perché la sensazione è che squadre come questo Genoa, come quel Toro, abbiano avuto e abbiano ora, nel caso dei rossoblù, un entusiasmo che a volte è mancato ad altri club che hanno affrontato la Coppa UEFA, ora Europa League, ed è un entusiasmo che poi si paga, come abbiamo visto anche in parte nelle esibizioni della Lazio e della Roma. È una sensazione che si può condividere o c'è anche dell'altro? Per quanto riguarda la Roma, sì. La Roma sicuramente non è andata in campo con la giusta concentrazione, è andata in campo con troppi problemi dentro. E io ricordo a tutti quanti che nel calcio guai se ti presenti con i problemi, non puoi neanche allenarti se i problemi che hai sono più importanti dell'allenamento. E la Roma ieri ha dimostrato di essere una squadra che ha dei problemi, ha fatto una pessima gara, i suoi uomini migliori si sono stati un po' oscurati, e qui dovrà lavorare Ranieri, perché non è questione di schemi, non è questione di moduli, di preparazione fisica, è questione di testa, ed è molto molto difficile lavorare sulla testa, anche se penso che i primi a rendersi conto che non hanno fatto una gara all'altezza sono stati questi ragazzi, che essendo intelligenti ed essendo bravi cercheranno da subito di rimediare. Però è stata la sconfitta, diciamo, più vera, perché il 2-0 ci stava tutto, ma anche più preoccupante. Sì, un gol subito per tempo sul campo del Basilea, che ha giocato appunto con una grande forza agonistica, sfruttando anche disattenzioni evidenti come quella che ha portato al gol del vantaggio, combinata disattenzione tra De Rossi e MXS. Sentiamo poi Claudio Ranieri al termine di questa partita. Naturalmente non è che una vittoria a Siena possa aver cambiato la situazione, c'è un problema proprio di determinazione, di saper soffrire tutti insieme e riusciamo a sbagliare delle cose semplici e alcune volte ci complichiamo la vita, però insomma dobbiamo lavorare, dobbiamo saper reagire, tutti si cade, ma a me piace il giocatore che sa reagire e vuole rialzarsi, per cui questo è l'appello che io ho fatto negli spogliatoi. Adesso dobbiamo subito recuperare energie nervose, perché domenica sera ci aspetta un'altra partita difficile. Il modulo, l'ho sempre detto, è quello che conta di meno. Capisco che qualcuno c'è più affezionato a questo o a quell'altro. Qui bisogna rimboccarsi le maniche e lottare e essere determinati, cattivi, vogliosi di fare il risultato. Il risultato non te lo regala nessuno, per cui questa è una buona squadra che gioca a calcio, corrono tutti, si aiutano, entrano quando c'è da entrare e hanno vinto la partita meritandosela. Queste le considerazioni di Claudio Ranieri, come sottolineava poco fa Emiliano Mondonico, soprattutto su questioni psicologiche di atteggiamento della sua squadra, peraltro oggi supportate anche dalle dichiarazioni di Rosella Sensi, che ha detto l'allenatore aveva i suoi motivi per manifestare queste considerazioni e questa delusione. Vorrei capire da Emiliano Mondonico, prima di fermarci per qualche istante per il traffico, se in assoluto quello che può mancare di più alla Roma come caratteristiche di giocatore è uno davanti alla difesa che protegga un po' la retroguardia, che subisce sempre gol dall'inizio di questo torneo ed era così anche l'anno scorso, o una punta di peso che aiuti o sostituisca, quando non è al meglio della condizione, Francesco Totti. Se tu fossi un uomo mercato e avessi pochi soldi a disposizione, dove li destineresti per questi ruoli? Cioè, dietro c'è questo De Rossi, magari, che può essere sostituito da Pizzarro, perciò penso che abbiamo il miglior centrocampista che forse c'è nel mondo in questo momento, e diciamo che se le cose vanno normalmente la Roma dovrebbe essere coperta. Davanti è difficile sostituire Totti, diciamo che, come secondo me dovrebbe fare la Juve, quando Totti non c'è bisognerebbe cambiare modulo. Ieri Totti c'era, non ha fatto chiaramente la sua parte, è stato marcato bene, è stato innervosito, ma questo succede. Qui non è tanto questione di andare a prendere l'uno e l'altro, perché le prestazioni di ieri dei giocatori della Roma non sono giuste, non sono vere, non sono quelle. Guai, è impossibile che i giocatori della Roma facciano e abbiano queste prestazioni. Perciò una tiratina d'orecchio a tutti quanti. E poi una considerazione: la Lazio perde e viene Barogno a mettere la faccia davanti, cioè il capitano. Anche le telecamere. La Roma perde e manda Motta e Burdisso. Ecco, forse da qui si incomincia a fare le cose sul serio. Quando si vince e quando si perde, che vengano i giocatori più rappresentativi a dire come mai, nel bene e nel male. Bene. Grande mondo, la definizione di squadra fanatica per il Genoa è perfetta. La domanda da genoano è: quali margini di miglioramento ha? Chiede Jack da Ivrea per Emiliano Mondonico. Puoi rispondere, Emiliano? I margini di miglioramento di questo Genoa penso che siano portare avanti questo fanatismo in senso positivo, che penso così calci a meraviglia come questa squadra si mette in campo, si propone, lotta, combatte e mette in soggezione gli avversari. Ecco, io penso che i margini di miglioramento sono aumentare questo modo di essere da parte di tutti quanti, perché è chiaro che Sculli, ma non solo, stanno trascinando un po' tutti quanti verso questo fanatismo molto molto positivo e propositivo. Sai però che il dovere di un giornalista è essere anche obiettivo e portare anche i confronti, e qui c'è anche un ascoltatore di Mantova che si chiama Riccardo, che dice che l'unica cosa in comune tra il tuo Toro e il genere dei Gasperini era l'agonismo e un po' anche i falli, perché per lo spettacolo sono meglio loro. Cosa ne pensi? No, ma sicuramente noi avevamo giocatori in difesa come Policano, come Pasquale Bruno, come Enrico Annoni, che quando c'era da tirare su le maniche non si tiravano indietro. Ognuno mette in campo le qualità e le caratteristiche dei propri giocatori. Il Toro aveva questa difesa abbastanza imperforabile, e meno male. Poi è chiaro che non posso far giocare Pasquale Bruno in tacco e punta, guai. Per chiudere il quadro sulla Lazio, poi c'è anche un ascoltatore in linea per completare l'intervento di Emiliano Mondonico. Sentiamo il tecnico Davide Ballardini al termine di una partita che la Lazio ha avuto in mano nel secondo tempo fino ai 10 minuti finali, e poi ha praticamente regalato e concesso al Red Bull Salisburgo con errori di Bizzarri, il portiere, e poi di Cribari nel ultimo minuto di recupero. Ecco Ballardini. No, la Lazio è partita, siamo partiti piano. Il primo tempo è stato così, non si attaccava bene senza la palla soprattutto, e quindi si dava la possibilità a loro di rimettersi a posto. Nel secondo tempo invece la Lazio ha accelerato, si è allargata, abbiamo attaccato senza la palla, abbiamo creato mi pare 5-6 palle gol chiare, siamo andati in vantaggio meritatamente. Poi dopo, su due disattenzioni nostre, loro hanno vinto la partita, e questo ci deve così far riflettere. Quindi, però l'impegno e la voglia di far bene c'è stata. No, ci sono, diciamo così, due tipi di disattenzioni. Uno è sul reparto e l'altro invece così sull'individuo, che l'individuo può succedere di fare un errore. È successo questo, siamo caduti nell'errore, e mi riferisco nel secondo caso, cioè l'errore individuale, quindi questo ci sta. Siamo molto molto dispiaciuti, perché l'impegno, la voglia, e anche credo si meritasse qualcosa di più. Questo era Ballardini. Emiliano, hai seguito anche questa partita ieri, naturalmente sempre con le considerazioni che si possono fare osservando più gare contemporanee, avendo non sempre la possibilità di seguire il match come allo stadio, però da esperto la tua analisi sarà sicuramente precisa. Quali sono gli aspetti che sono mancati, o semplicemente è il risultato che manca alla Lazio per gli errori individuali che ci sono stati nel finale? Allora, primo tempo, squadra in colore, poi brutta partita, ed è chiaro che ero abbastanza impressionato dal grande cambiamento che c'era stato dalla gara con la Juve alla gara di ieri sera. Nel secondo tempo Ballardini fa un cambio incredibile, fuori da Bo, dentro Foggia, cambia modulo, mette questo 4-4-2 molto offensivo, Foggia spacca in mezzo la difesa degli avversari, vanno meritatamente in vantaggio, dominano la partita, poi dopo un certo punto si spegne la luce, a un certo punto esce Cruz, entra Mauri, gli altri sono obbligati a tentare, ed è saltato fuori questo patatrac. Perciò complimenti a Ballardini per la mossa, per il cambio che ha fatto alla fine del primo tempo. Però già non ero d'accordo sabato, quando la Lazio non ha fatto giocare Zarate, e la prestazione fisica soprattutto di Zarate ieri sera mi convince che il ragazzo poteva giocare anche sabato contro la Juventus. E perciò diciamo che ci sono delle partite così importanti dove i giocatori più bravi devono giocare. Una volta si diceva che dovevano giocare anche con una gamba sola. Mi sembra che Zarate sabato, se avesse potuto, la gamba era più di una sola. Sì, e poi torno al discorso portiere. Ieri sera, in una gara di Coppa Europa, turnover, chi cambia? Il portiere. Muslera, che ha sempre giocato sino qui, viene sostituito da questo Bizzarri, che sicuramente sarà un buon portiere, però guarda caso è quello che ha creato il patatrac sulla sconfitta della Lazio. Io mi chiedo, in una gara importante, in una gara d'Europa, è proprio così, così giusto, così necessario far fare turnover al portiere? Io penso che nelle gare importanti devono sempre giocare i titolari. Perciò complimenti a Ballardini per quanto il cambio alla fine del primo tempo, però diciamo questo è turnover, lo faccia magari nelle partite del giovedì, quando ci sono le partite vere, faccia giocare i titolari, magari si perde ugualmente, però almeno non ti rimangono in sé, ma anche in questo momento penso debbano rimanere, senza nulla togliere alla bravura di Bizzarri, ma sicuramente se fino a ieri ha giocato Muslera e come ha giocato soprattutto sulle uscite, non vedo perché in una gara importante d'Europa devi fare questo cambiamento. Questa è la mia idea. È vero. Zárate peraltro diceva Ballardini alle vigilie aveva il 30-40% di possibilità di farsi male, da qui la decisione. Anche è vero insomma che anche altre situazioni simili dei giocatori che sono tornati ad esempio dalle trasferte internazionali come Lavezzi, che è rimasto a riposo nel match del Napoli contro il Genoa, hanno lasciato qualche dubbio. I grandi giocatori vogliono giocare le grandi partite e recuperano più rapidamente di altri, lo fanno dal punto di vista mentale e fisico con grande entusiasmo. Chiudiamo il collegamento con Emiliano Mondonico con una telefonata all'800 24 0024 di un ascoltatore, Marco da Pavia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, vorrei dare un grosso abbraccio a Emiliano. Io sono un tifoso atalantino e se sono atalantino è per merito suo, di quando ero piccolo, da quando avevo 8 anni che mio papà mi portava a vedere le partite. E sono un po' deluso da questo avvio un po' titubante dell'Atalanta. È stata sfortunata, però non vedo quel carattere che ci vorrebbe, che dovrebbe trasmettere l'allenatore. Sentiamo Emiliano Mondonico come valuta questa osservazione. Grazie a Marco da Pavia. Emiliano. Sì, l'Atalanta è chiaro che in questo momento desta un po' di preoccupazioni, però le prestazioni secondo me sono state sufficienti e perciò bisogna dare fiducia a questi ragazzi, fiducia a questo allenatore. Se non esiste niente all'interno della squadra, negli spogliatoi, è chiaro che questo allenatore deve andare avanti perché i ragazzi non si sono mai tirati indietro. È chiaro che è stato cambiato moltissimo con l'inserimento di Acqua Fresca al posto di Floccari, è chiaro che in questo momento gira anche male. Doni non è al 100%, ecco, Doni penso che nessuna squadra, forse neanche la Sampdoria di Cassano, sia dipendente da un giocatore come l'Atalanta è dipendente da Doni. Vero. Io mi auguro veramente che Doni riacquista la giusta condizione e solo dopo che Doni avrà riacquistato la giusta condizione potremmo avere e dare una prospettiva più sicura sul futuro, sul presente e sul futuro dell'Atalanta. Questa è la mia idea. Grazie Emiliano Mondonico, a presto. Grazie a voi come sempre e buona giornata. Grazie Emiliano Mondonico. C'è anche Maurizio da Loreto che ricorda dall'1 all'11 il grande toro di Mondonico, Marchegiani, Bruno, Policano, Fusi, Annoni, Cravero, Lentini, Scifo, Casagrande, Martin Vasquez e Venturin e Nico da Genova, che giustamente dice ieri sera non c'è stata nemmeno una ammonizione nella partita del Genoa, però non si può negare che è una squadra che lo fa anche rendendola una delle sue caratteristiche migliori, è una formazione molto agonistica, lo è sempre stata anche l'anno scorso e in alcuni momenti, soprattutto nel derby di ritorno, ci sono stati degli episodi e delle situazioni che erano assolutamente evitabili e in cui l'agonismo non rientrava nei limiti di una partita di calcio. Poi si può discutere se in Europa ci sia maggiore o minore elasticità da parte degli arbitri. Sicuramente i giocatori quando vanno in Europa hanno un atteggiamento molto più rispettoso nei confronti dei direttori di gara, molto più attento negli interventi fallosi o che possono portare a falli, quindi di tutto un po'. Sicuramente la collaborazione dei giocatori in Italia rimane molto lontana da quella che c'è poi da parte delle squadre italiane in Europa e da parte in generale delle squadre europee nelle sfide internazionali. Bentornati nell'ultima parte, ampia pagina dedicata al basket e ai campionati europei con Flavio Suardi e con Carlo Genta, che è in Polonia per seguire questa fase della massima competizione continentale per noi. Flavio Suardi, redazione, mi aggiorna anche sul match di Davis con Wawrinka, che ha battuto Seppi e dunque a Genova. Italia 0, Svizzera 1. Ci sono altri messaggi, un po' di tifosi della Cremonese delusi per quanto è successo negli ultimi anni. C'era Mondonico in panchina, è stato nostro ospite, naturalmente credo che abbia dato moltissimo a questa società e a questo club in passato, molti anni fa. Non sempre si può tenere il meglio di quanto si spera, non sempre si può replicare il successo ottenuto in fasi precedenti della carriera. Lo stesso vale anche per chi contesta il fatto che ci siano giudizi da parte di allenatori che hanno fatto risultati più o meno positivi di recente in panchina, e poi dopo giudichino i colleghi. Questo fa parte del nostro ambiente, del nostro lavoro. Molto meglio allenatori decisi nei loro giudizi, obiettivi e onesti dal punto di vista professionale, di altri che sono sempre moderati, un colpo di qua, un colpo di là, perché vogliono rientrare subito nell'ambiente, non vogliono toccare nessuno dei loro colleghi, non vogliono sembrare a volte anche in maniera un po' ipocrita negativi nei loro giudizi. Le vostre telefonate 800 24 00 24. Davide da Frosinone, buon pomeriggio. Sì, un buon pomeriggio a voi. Prego. Non è per il risultato di ieri sera, diciamo, della Coppa UEFA riguardante la Lazio, però adesso penso che, ma non in virtù di questo, vadano anche rispettati coloro che non la pensano come questa presidenza, e io credo che siamo in netta maggioranza. Cioè, questa squadra diciamo non si è tenuta conto della brutta figuraccia che ha rimediato l'anno scorso, e togliamo il discorso sì della Coppa UEFA, cioè della Coppa Italia e di tutte quante le altre storie, cioè perché fa da scudo a una società che sinceramente in questi 5 anni ha rappresentato una negatività per questa squadra, e in virtù di questo è stato anche, diciamo, promosso un certo tipo di mercato che è sotto gli occhi di tutti. Cioè questa squadra quest'anno rischia doppiamente di fallire, tanto i presupposti ci sono, visto anche i risultati degli inizi, diciamo, della stagione. Cioè la domanda che la voglio fare, sì. Io penso che sia arrivato il punto che questa società o faccia, diciamo, una profonda riflessione, nel senso che dica che non può promettere cose per questa tifoseria, e mi sta bene. Non mi sembra che lo Tito abbia mai promesso nulla. Aspetti, parlando del progetto che c'ha in mente il presidente, che sinceramente non so da quale fondamento arrivi, cioè il presidente e la sua società sta dicendo che questa società tra 3-4 anni sarà pronta per, ma già sono passati 3-4 anni, certo, sì, ma dico a livelli in tempi immediati, a memoria non ricordo di grandi proclami, anzi mi sembra che il realismo sia stato sempre uno dei parametri fondamentali cui si è appoggiato lo Tito. Un'altra cosa, io ho sentito, diciamo, a Roma le trasmissioni, diciamo, dei emittenti radiolocali. Sì, ce ne sono un po' da voi di quelle. Ma poi, perché tanto loro, sai che fanno? Vince la Lazio, microfoni aperti, perde la Lazio, non se ne parla proprio. Quindi parlare a voi gentilmente. Cioè questa squadra... Sì, brevemente, perché poi ci sono anche altri ascoltatori in coda. Breve. Quest'anno addirittura si è obbedizzato un quarto posto, perché questa squadra ha capacità psicologiche, non fisiche, per arrivare a un quarto posto. Cioè, ma io dico una cosa, ma la realtà, ma la gente, cioè, dove la vede? Cioè, dove sta questa realtà? Cioè, purtroppo gli stolti che girano in questa città sono tanti. E quindi è normale che, di comune accordo, la società naviga grazie a loro. E quindi questa società, secondo me, ha riportato in questi 4 anni risultati parlamentari, e non lasciamo perdere il discorso. Grazie, grazie Davide. Naturalmente, insomma, mi piacerebbe parlare un po' più di calcio e di cose tecniche, anche troppo spazio per queste argomentazioni. Marco da Prato, vediamo se va un po' meglio. Prego, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, non so se va meglio, volevo fare una considerazione solamente sul Genoa di Gasperini, sì. Anzi, su Gasperini, che io ritengo essere forse il miglior allenatore italiano, perché è un allenatore che fa giocare i giocatori e la squadra come nessuno. Ora siete andati a parlare di altri argomenti, però ecco, io c'è spazio per tutto, certo. È un allenatore che prende giocatori un po' pannati, come è stato Milito, come è stato Thiago Motta, Crespo, Sculli, lui stesso, e gli fa diventare dei leader in campo, gli fa tornare a livelli ottimali. E niente, una battuta potrebbe essere di mandargli anche Ronaldinho, vediamo se funziona. però bisogna correre per giocare nel Genoa. Vero, bisogna correre tanto, e c'ha dei bei preparatori atletici. Io sono tifoso juventino e non capisco come la Juventus, con tutto il rispetto che ho per Ferrara, che comunque penso che sia un bravo allenatore, non capisco come abbiamo potuto lasciare andare un Gasperini e un Mimmo Criscito dopo una partita, con il gol di Totti. È vero, è vero. Grazie Marco da Prato. Quanto alla considerazione sulla Juventus, credo che la scelta di Ferrara sia stata orientata da tante valutazioni. Sicuramente il consiglio di Lippi è stato molto seguito dalla società, non a caso i due sono stati poi avvistati anche a cena di recente dopo una partita serale della Juventus. Insomma, è chiaro che al di là di tutte le considerazioni senza dietrologia è evidente che il consiglio del commissario tecnico della nazionale è stato seguito, così come è stata seguita anche una sensazione popolare crescente che preferiva, se non pretendeva, un uomo che fosse di cuore bianconero, che fosse appartenente al club in una maniera più definita, più chiara rispetto a quanto era Ranieri, che poi non a caso quando si è presentato alla conferenza stampa della Roma, tra le prime cose che ha detto: il mio sogno è sempre stato allenare qui, perché da romano era una squadra che doveva essere nel mio curriculum e che ho sempre desiderato allenare. Quanto a Gasperini, tutti noi naturalmente lo apprezziamo nell'ambiente, perché il Genoa l'anno scorso cambiò 12 giocatori e si espresse a livelli superiori all'anno precedente. Poi chiaramente lo faceva con uomini di grande qualità. Quest'anno ha cambiato ancora molti giocatori, ha perso i suoi due migliori interpreti, Milito e Thiago Motta, eppure ha trovato con giocatori con caratteristiche simili ma non uguali, perché Palacio ad esempio è un esterno molto atipico per il 4-3-3, perché in Argentina ha sempre fatto la seconda punta molto vicina alla porta. Però Gasperini ha trovato già un'identità di squadra molto chiara, una mentalità che i suoi giocatori riescono a esprimere come fossero sempre gli stessi da anni. Tutti noi abbiamo anche la curiosità, qualcuno ha il dubbio, molti hanno la curiosità di capire se questo tipo di gioco, con questo dispendio di energie, questa applicazione tattica nel corso della settimana, perché questa fa la differenza anche per quanto poi si vede la domenica, se tutto questo è possibile da replicare in un grande club con giocatori di alto livello che hanno già ottenuto traguardi importanti in carriera, che hanno già acquisito una certa mentalità e che tendono probabilmente in maniera anche inconscia ad adeguarsi a certi standard di allenamento, a certi standard di preparazione. Però l'applicazione fa molto la differenza, le motivazioni fanno molto la differenza, e probabilmente alla Juventus ancora avevano il dubbio che qualcosa a Gasperini mancasse e manchi per essere da Juventus. Però è possibile che poi qualche altro club, qualche altro grande club, sfrutti le sue competenze. Vedremo. Nel frattempo Stefano da Milano, l'800 24 00 24. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio. Prego. Io volevo fare una considerazione sulle affermazioni di Galliani, che ha fatto oggi relativamente alla possibilità nel futuro di perdere un posto in Champions League. Sì. Mi sembra che negli ultimi anni abbiano i dirigenti del calcio italiano abbiano più pensato a portare più gente in televisione, i soldi della televisione, e a concentrare il focus tutto sulla Champions League. E poi è chiaro che se non si semina nel corso del tempo le altre manifestazioni tra virgolette minori vengono penalizzate, e quindi di conseguenza anche le squadre sentano in un modo differente la partecipazione. Tanto è vero che, come diceva Mondonico, abbiamo cambiato un portiere che forse non era il caso di cambiarlo. Sì. Beh, sicuramente è vero. Io penso al Livorno, anche non so se lei ricorda, di recente aveva conquistato la Coppa UEFA, aveva giocato anche contro avversari di grande prestigio come l'Espagnol, se non ricordo male, e affrontò la Coppa UEFA quasi con Spinelli che intimò la sua squadra di uscire rapidamente. La Sampdoria stessa con Mazzarri se l'è giocata, ma l'obiettivo era sempre quello poi di rimanere oltre la linea di galleggiamento in campionato, e quindi questa mentalità, curei facendo, sicuramente fa la differenza, così come un nostro atteggiamento che fatico sinceramente a comprendere, perché non è fondato su osservazioni oggettive e plausibili, di avvicinare queste competizioni come se fossero secondarie. Gli altri club, anche quelli prestigiosi, ho visto ieri sera Panathinaikos, Werder Brema, squadre che l'anno scorso erano in Champions e che sono abituate a giocare la Champions, affrontano la Coppa UEFA con grandissimo entusiasmo, con grandissima intraprendenza. E quindi poi sono d'accordo con lei quando dice che poi alla fine paghiamo quelle che sono le nostre carenze a livello di mentalità, non solo di club ma anche di nazionale. Poi alcune cose sono impossibili da migliorare, perché ha ragione Arrigo Sacchi sulla Gazzetta quando scrive che in Italia mai riusciremo ad arrivare ad avere squadre che giochino come il Barcellona e il Manchester, essere così vincenti. Ha ragione Marcello Lippi quando dice che mai la nostra nazionale riuscirà a giocare il calcio che gioca la Spagna, perché ci sono delle pressioni incredibili, perché progettare sembra impossibile. Solo il fatto che Mourinho chieda qualche settimana, qualche mese per allestire una squadra che evidentemente è nuova in molti suoi uomini, sembra che lui prenda tempo, voglia fare solo i suoi interessi. È chiaro, lui li fa sempre, dice sempre anche la verità, quindi mettendo insieme un po' le cose c'è una progettualità che però, ripeto, in Italia purtroppo non siamo abituati ad accettare e che ci sta costando molto molto cara. Ultima parte di questo ultimo appuntamento della settimana di A Tempo di Sport, non ancora un appuntamento integrale, ma una finestra ampia dedicata al basket con i campionati europei. Palla spicchi. Flavio Suardi mi ha raggiunto per affrontare i temi proposti da questi campionati europei. Buon pomeriggio Flavio. Buon pomeriggio a te Massimo e agli ascoltatori. Insieme salutiamo Carlo Genta, inviato in Polonia, ha visto ieri all'opera la Spagna di Scariola affondare la Francia. Buon pomeriggio Carlo. Ciao Massimo, ciao Flavio, ciao a tutti. Quali sono le sensazioni che hai raccolto ieri dalle vittorie di Spagna e Serbia su Francia e Russia? Ma guarda, sentivo te pochi istanti fa fare un discorso relativo al calcio molto, molto interessante e intelligente sulla progettualità. Ebbene, devo dirti che ho un po' di invidia nei confronti dei serbi, che per 8 anni non hanno vinto nulla, adesso si ritrovano per le mani una squadra giovanissima, interessantissima, 22-23 anni di età per quasi tutti i giocatori. Ieri hanno raggiunto un altro grande risultato, e su questo insisteva Ilkovic poi in conferenza stampa dicendo insomma cominciamo a raccogliere i frutti di un lavoro lungo, non so se da noi sarebbe possibile. Comunque grande partita quella della Serbia con la Russia, con i lunghi serbi Krstic e Perovic che hanno stritolato un altro giovanissimo di questi europei, Timofei Mozgov, che è il centro della Russia, il centro del Kink di Sergio Scariolo, un altro molto interessante, ma che ieri è stato massacrato dai due lunghi serbi. È un po' l'europeo del ritorno dei pivot, questo mi pare. Comunque è una Serbia che, ripeto, squadra molto interessante, dall'altra parte una Russia che era campione uscente, che presentava soltanto un giocatore, perché anche qui si parla di rinnovamento e di assenze che in questo europeo ci sono, quelle di ad esempio per i russi Kirilenko, che è la loro stella. Ebbene, c'è solo Monia tra i campioni d'Europa di 2 anni fa, Russia molto giovane, ma ieri non c'è stato niente da fare. E poi ieri sera una specie di show hollywoodiano, quello ecco. Quello di Gasol, era in campo. Volevo dirti, dimmi. Giusto questo Carlo, è che hai assistito a una partita tra una squadra come la Spagna, che addirittura sembrava in discussione a partire dal suo tecnico dopo una partenza certamente non ottimale, e una Francia che è entrata a questi europei dalla porta di servizio e che praticamente non aveva mai perso fino a ieri, mi pare. Guarda, ieri sera è stata una partita strana, è stata una Spagna anche molto criticata. Scariolo da qualche giorno non parlava con i media spagnoli, Scariolo un po' sotto tiro. D'altra parte la Spagna è un fenomeno strano, perché forse mai nessuna squadra ha avuto addosso così tanta pressione come la Spagna. Se la Spagna non vince questo europeo è un fallimento, la Spagna non ha mai vinto un titolo europeo, però francamente ha per le mani una squadra che sulla carta è imbattibile. La Francia veniva da 5 vittorie consecutive, una anche autolesionistica come quella con la Grecia, che l'ha messa contro la grande favorita già nei quarti di finale. Beh, ieri ti dico, la Spagna è stata impressionante, ha giocato un primo tempo impressionante, se c'erano le nuvole, spazzate via completamente da quel primo tempo, aperto dal fuoco di fila da 3 punti di Rudy Fernandez, di Navarro. E poi chiuso da uno show di Gasol, suoi ultimi 8 punti nel primo tempo, ma la Francia non c'è mai stata. Tony Parker non si è visto, non pervenuta alla partita, difesa molto fisica e molto dura su di lui di Ricky Rubio, che poi Scariolo ha pubblicamente elogiato in conferenza stampa. però in tutto onestà, troppa roba la Spagna per la Francia con un Tony Parker da 6 punti e uno sotto al tiro, Flavio. Sì, mentre dall'altra parte Gasol ha fatto 11 su 13 dal campo e mi pare abbia spazzato via anche qualche attrito che c'era nelle prime partite. Però Carlo, vorrei chiederti di conto delle partite che andranno invece in scena oggi, cioè la Turchia contro la Grecia e poi Slovenia-Croazia. Turchia di Boša Tanjević che zitta zitta sta però ottenendo un buon risultato, direi. Ma un ottimo risultato fin qui, è stata una delle squadre che ha giocato il basket migliore. Devo dirti anche che questo europeo è molto interessante anche perché propone un sacco di derby. Ieri, volendo anche Francia-Spagna, rivalità storica, Russia-Serbia comunque è una specie di derby dell'est. E questa sera ce ne sono due veri di derby. La Slovenia, che secondo me è fortissima, ha recuperato anche Mattias Modis. È una squadra molto completa, è una squadra che si dice sì, è forte ma non vince mai. Questo europeo potrebbe essere la grande sorpresa. Dall'altra parte la Croazia del nostro vecchio amico Jasmin Repesa, che non ha fin qui incantato. Se devo dire Slovenia favorita, l'altra partita, vabbè, a proposito di rivalità storiche, no? Turchia contro Grecia che finalmente gioca e corre con un allenatore lituano. La Turchia, per la quale non possiamo non fare il tifo, perché insomma Boša Tanjević 10 anni fa ci diede la medaglia d'oro, lo conosciamo, è stato da noi per una vita, insomma è uno di noi e quindi non posso nascondere un certo tifo per la Turchia, che ha una superstar come Edo Turkoglu e che insomma vedo un po' leggermente favorita sulla Grecia, Flavio. Sì, esatto, tra l'altro partite quelle di oggi da assistere con l'elmetto anche da spettatori, viste proprio le rivalità. Carlo, volevo chiederti questo, è inutile negare che noi guardiamo questi europei con un po' di nostalgia, un po' di rimpianto, un po' di invidia se vogliamo per quelli che ci sono, e invece il nostro basket insomma li guarda in televisione oppure li ascolta come in questo caso tramite i tuoi racconti, insomma triste vedere gli europei da casa. Tu sei fortunato che sei lì, però insomma il basket italiano li guarda mediamente in televisione. Sì, Flavio, questo è vero, è un tema insomma che ci ha tenuto compagnia per tutto l'estate e lo farà anche in futuro. Francamente, guarda, tornerei all'esempio della Serbia. Bisogna ricostruire, bisogna avere la pazienza anche di accettare alcuni anni di risultati deludenti, secondo me, perché è giusto essere critici, è giusto sottolineare le cose che non vanno, però è giusto anche ricordare che superpotenze come la Serbia, la stessa Lituania, la grande bocciata di questi europei, pur con assenze importanti, insomma ci hanno messo tanto tempo per tornare ad essere competitive. E qui torna l'invidia, no? Per una Serbia che tutto sommato ha lavorato con pazienza, che si trova il gruppo dei ragazzi del Partizan Belgrado guidati da un Veličković che è già un giocatore clamoroso, e anche noi dovremmo imparare quella lezione. Quanto al clima, tu dicevi parlavi di elmetto, ma ti dico ieri ho sentito una cosa strana, qui la rappresentanza più numerosa, ma decisamente più numerosa, è quella lituana. Ci sono un sacco di lituani, la loro squadra è a casa, loro vengono, assistono alle partite, di tanto in tanto si alza in coro Lietuva, e quindi il clima fin qui è stato di questo tipo. Stasera non lo so, vediamo. Senti, l'ultima domanda che volevo farti è questa: tu stai vedendo praticamente le parti migliori del basket europeo, guardando l'Italia, secondo te saremmo stati davvero così lontani da quel livello? Sì, lontanucci Flavio, anche perché l'estate ci ha detto che in fondo una squadra non ce l'abbiamo. Abbiamo un gruppo di giocatori di grande talento, abbiamo alcuni dei talenti più clamorosi che l'Italia ha mai avuto, perché giocatori come Bargnani, Bellinelli, Gallinari in prospettiva forse non li avevamo mai visti. Questi sono euro giocatori sul serio. Quanto al resto, in tutta onestà, non siamo una squadra competitiva a questo livello, perché ci mancano tante cose. Insomma, io credo che fossimo stati in Polonia, non so se saremmo arrivati qui a Katowice a giocarci il gran finale. Francamente siamo lontani, Flavio, dispiace dirlo. Grazie Carlo Genta, presto, ci ritroviamo nel weekend. Grazie a te Massimo, appuntamento a domani. Ciao Carlo. Grazie a Carlo Genta, che ritroverete naturalmente negli appuntamenti canonici del sabato e della domenica, per parlare anche ancora di campionati europei, con la fase decisiva, le due semifinali Spagna-Serbia e le due vincenti poi delle gare odierne Turchia-Grecia e Slovenia-Croazia, la finalissima che si disputa domenica in Polonia. Grazie Fabio Suardi, a presto. A te Massimo, a presto. Grazie Fabio Cantadori in regia, a voi per averci seguito, a risentirci con A Tempo di Sport su Radio 24 da Massimo Callegari.